per definizione la rete è multimediale, cioè multicentro, multicontenuti, multitasking, come diciamo noi. È evidente che un contenuto seccamente monotematico e anche un po' monogenere come l'informazione stampata è il primo a rischiare, quindi non c'è dubbio che l'informazione cartacea così come la conosciamo o cambia contenuti e cambia anche linguaggi, oppure è destinata a diventare una enclave di minoranza per commentare più che informarci. Ecco, ma in questa prospettiva rischia anche un mezzo di larga diffusione come la televisione, dottor Mocellini? Certo, certo, non solo rischia, solo nello strano dibattito pubblico italiano in cui chi parla male della televisione ovviamente prende la scossa elettrica, non si dice che dal 1993 la televisione sta perdendo pubblicità, pubblico e soprattutto reputazione tra le culture nuove, per esempio i giovani lo hanno già abbandonata, quindi la televisione è paradossalmente, perché è un multigenere, quindi non condivide la stessa univocità di corde della carta stampata, però è stata la prima a pagare il prezzo, anche perché la televisione generalista, ahimè, in Italia è troppo poco disponibile all'innovazione.